Mercato Notte, le notizie in 60 minuti. Lupi cede alle pressioni e annuncia a porta, domani dopo l'informativa mi dimetto, la cosa migliore è che io mi assuma tutte le mie responsabilità ma che salvaguardi la mia famiglia. Tunisia, 4 arresti per l'attacco di ieri al museo, l'attentato rivendicato in un audio diffuso online da un gruppo di militanti dello Stato Islamico, quello a cui avete assistito è solo la prima goccia di pioggia, si sente nell'audio. E sono diventate ufficialmente 4 le vittime italiane, identificati i corpi di Giuseppina Biella e Antonella Sesino, date per disperse. Il presidente Mattarella alla CNN, l'ISIS, come tutto il terrorismo fondamentalista, è il nuovo vero nemico della civiltà, della democrazia, dei diritti umani. Un minuto di silenzio per le vittime di Tunisi a Bruxelles, al Consiglio europeo, dove va in scena l'incontro Merkel-Tsipras, ma la cancelliera chiarisce nessun accordo con Atene, oggi o lunedì. Depositata la sentenza di fallimento del Parma Calcio, debiti complessivi per più di 218 milioni, oltre 63 verso i calciatori. Europa League, il Napoli pareggia 0-0 in casa della Dinamo Mosca e si qualifica ai quarti, la Fiorentina batte 3-0 la Roma all'Olimpico, esplode la rabbia dei tifosi, hanno offeso la nostra maglia. E fra pochissimo parleremo dei fatti di Tunisi, delle novità di oggi sulle vittime, sulle indagini, ma prima la pagina politica con le dimissioni del ministro dei trasporti e delle infrastrutture Maurizio Lupi, dimissioni annunciate a porta. Alla fine il pressing produce il risultato che molti, tra cui il premier Matteo Renzi, auspicavano. Maurizio Lupi si dimette da ministro delle infrastrutture, lo annuncia porta a porta l'esponente del nuovo centrodestra nel giorno del vertice a Palazzo Chigi con Renzi e Alfano. Ho telefonato al Presidente della Repubblica, come è doveroso fare perché ricordo ancora la nostra Costituzione e che poi i ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica e ho comunicato loro, sia al Presidente del Consiglio che al Presidente della Repubblica, che l'informativa che ho fortemente voluto domani in Parlamento, perché bisogna rispondere alle doverose e legittime domande che i gruppi parlamentari, maggioranza, opposizione, i giornalisti si sono posti da quando è scoppiato questo scandalo, che domani alla conclusione di quell'informativa rassegnerò le mie dimissioni. Questo mio gesto, prosegue poi Lupi, non vuol dire ritirarmi dalla politica e precisa che il Premier non ha mai chiesto le sue dimissioni perché doveva essere una sua scelta riguardo al suo sostituto al Ministero delle Infrastrutture, però auspica che non venga dalle file del PD perché sarebbe un indebolimento per il governo. Si chiude così una situazione che la minoranza Dem in testa Gianni Cuperlo aveva definito ormai insostenibile. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Dure le parole del Presidente della Repubblica Mattarella alla CNN dopo quanto successo in Tunisia. L'ISIS, come tutto il terrorismo fondamentalista, è il nuovo vero nemico della civiltà, della democrazia, dei diritti umani. E poco fa anche le parole di Bagnasco. L'Occidente non si deve assolutamente spaventare, dice il Cardinale Angelo Bagnasco, Presidente della CEI, perché sarebbe fare il gioco dei terroristi, né deve raccogliere la provocazione perché l'Occidente reagisce e il mondo fondamentalista islamico possa urlare all'aggressione occidentale suscitando i sentimenti degli islamici in tutto il mondo. Queste le parole del presidente della CEI, Angelo Bagnasco. Intanto oggi si è chiarito meglio il numero delle vittime e il paese è sceso in piazza per protestare contro il terrorismo islamico. Roberta Pellegatta. Sì, si è capito meglio il numero delle vittime, purtroppo le notizie non sono buone perché ormai, come diciamo da questo pomeriggio, è ufficiale, le vittime italiane dell'attentato di ieri al Museo del Bardo a Tunisi sono 4. Il nostro Ministero degli Esteri nel pomeriggio ha confermato la morte delle due nostre connazionali che ancora erano considerate disperse, cioè di Antonella Sesino, dipendente del Comune di Torino di 54 anni, e di Giuseppina Biella, di 70 anni, di Meda, in Brianza. Adesso si attende il riconoscimento ufficiale dei corpi da parte dei familiari che stanno per arrivare a Tunisi. Le altre vittime italiane, lo ricordiamo, sono Francesco Caldara, pensionato 64enne di Novara, e l'informatico torinese di 54 anni Orazio Conte. Dunque si aggrava ancora il già pesante bilancio dell'attentato, almeno 23 i morti, tra cui 18 stranieri, 3 tunisini e 2 terroristi, e 48 i feriti, tra cui 11 italiani. I turisti presi di mira dai terroristi erano da poco sbarcati dalle navi MSC Splendida e Costa Fascista macinosa a bordo della quale viaggiava la gran parte degli italiani rimasti coinvolti nell'attentato, entrambe le compagnie navali hanno deciso di cancellare tutti i prossimi scali in Tunisia. Quanto ai responsabili della strage non ci sono ancora notizie ufficiali. Rita Katz, la fondatrice del sito di Intelligence Site che monitora l'ISIS sul web, ha fatto sapere che l'attentato è stato rivendicato da miliziani dello Stato Islamico attraverso un audio diffuso online, ma non c'è ancora una prova dell'autenticità della rivendicazione, così come non c'è conferma che sia stata twittata proprio da seguaci dell'ISIS la frase shock che accompagna la foto di una delle vittime italiane, Francesco Caldara, che recita: questo crociato è stato schiacciato dai leoni del monoteismo. A quanto si sa, per ora le forze di sicurezza tunisine avrebbero arrestato e interrogato 9 persone, mentre una decima è ricercata. Per il momento è tutto. Grazie, grazie a Roberta Pellegatta che ci ha tenuto informati per tutto il pomeriggio sui fatti di Tunisi. E in partenza per la città tunisina alcuni rappresentanti del comune e di familiari dei torinesi rimasti coinvolti nell'attacco. I passeggeri della nave della Costa Crociera rientreranno a Torino domani. Quello che era soltanto un sospetto si è trasformato in tragica realtà. È arrivata in queste ore la conferma della morte delle due donne italiane ancora disperse. Si tratta di Antonella Sesino, dipendente del comune di Torino di 54 anni, e Giuseppina Biella, settantenne di Monza. Il bilancio delle vittime italiane sale dunque a 4, di cui 2 torinesi. Per questo il sindaco del capoluogo piemontese, Piero Fassino, ha indetto per oggi e domani 2 giornate di lutto cittadino. Fassino ha manifestato in particolare la propria vicinanza ai dipendenti del comune, indirizzando loro una lettera in cui denuncia l'alto tributo che la città ha pagato al terrorismo internazionale. Intanto si sono accese le polemiche dei parenti delle vittime che accusano gli organizzatori del viaggio, che aveva portato 80 dipendenti comunali torinesi a Tunisi, di aver ignorato i rischi che i turisti correvano. Il sindaco ha dato appuntamento per questa sera ai rappresentanti delle istituzioni e ai cittadini per una manifestazione contro il terrorismo e per ricordare le vittime torinesi. È previsto invece per domani il rientro della comitiva imbarcata sulla nave Costa Fascinosa. Miriam Corgia, 3D24, Sole 24 Ore, Torino. Belgio, Olanda e Lussemburgo, guidati dal premier belga Charles Michel, hanno incontrato stasera il presidente europeo Donald Tusk sulla Grecia prima dell'avvio del vertice. I tre, in particolare Michel, che ha espresso la sua rabbia per il mini vertice su Atene, a cui parteciperanno in tarda serata solo Francia e Germania, hanno chiesto spiegazioni. Il Benelux ha protestato anche all'inizio dei lavori, ma secondo fonti europee gli altri paesi non hanno voluto convocare un Euro Summit. In agenda oggi al vertice l'unione energetica e la crisi ucraina. A proposito di Europa, l'Italia è solo 19esima nella classifica del benessere stilata dall'Unione Europea. L'indice nazionale, fissato a quota 6,7, risulta inferiore alla media europea e ai dati fatti registrare da tutti gli altri paesi europei. Sono dati relativi al 2013, elaborati per la prima volta da Eurostat, sulla soddisfazione espressa dai cittadini rispetto alla qualità della vita nelle rispettive nazioni. Al via l'operazione TFR in busta paga. Chi farà domanda a marzo l'avrà già in aprile o in maggio. Attesa ormai da settimane, dovrebbe finalmente partire l'operazione TFR in busta paga. Il Ministero dell'Economia infatti fa sapere che tra stasera e domani verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'atteso decreto con le istruzioni operative. La norma prevista dalla legge di stabilità riserva ai lavoratori del settore privato la possibilità di avere in busta paga la quota mensile del proprio trattamento di fine rapporto. Nel decreto sarà presente anche il modulo per fare richiesta al datore di lavoro. Le aziende avranno 2 possibilità. Se hanno in cassa i fondi necessari dovranno erogare il TFR il mese successivo a quello della richiesta. In caso contrario, grazie ad un accordo in via di definizione con l'associazione bancaria, potranno farlo dopo 3 mesi con tanto di arretrati. Chi farà domanda a marzo quindi avrà il TFR in busta paga ad aprile o al più tardi a giugno. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Piaggio dovrà richiamare 40.000 scooter Gilera Runner prima serie perché non sono sicuri. Ad imporlo alla società quotata che fa capo a Roberto Colaninno è il Tribunale di Pisa. Il rischio sta nella collocazione del serbatoio posto davanti al guidatore, che in caso di urto frontale potrebbe prendere fuoco, come è avvenuto in alcuni incidenti. L'associazione Altro Consumo aveva già provato 2 anni fa a far togliere dal mercato il ciclomotore, sempre attraverso un'ordinanza del Tribunale di Pisa, ma in quell'occasione la Piaggio era riuscita a farla sospendere. Con l'ordinanza di 2 giorni fa, i giudici sono tornati sui loro passi dopo aver acquisito alcune consulenze tecniche. Domani 20 marzo, disagi per chi deve viaggiare in aereo a causa dello sciopero nazionale del personale di ENAV indetto dalla sigla sindacale autonoma unica. Dalle ore 10 alle 18 potrebbero esserci dunque cancellazioni e ritardi. E siamo allo sport con il calcio e con l'Europa League. In campo in questi minuti Torino ed Inter. Invece sappiamo com'è andata per il Napoli, che ha pareggiato 0-0 in casa della Dinamo Mosca e si è qualificata ai quarti. E esplode anche la rabbia dei romanisti, ma sentiamo perché da Giovanni Capuano. Eccomi Piera, intanto io sono a San Siro dove ci sono Inter e Wolfsburg in campo, è iniziata a 10 minuti, bellissima, con già una serie di grandi occasioni sia per l'Inter che per il Wolfsburg. Inter che ricordiamo deve risalire dal 3-1 dell'andata, e in questo momento in campo c'è anche l'altra italiana, il Toro, che deve fare la rimonta contro lo Zenit, risultato 0-0. La rabbia dei tifosi della Roma è scoppiata perché la Roma è crollata in casa contro la Fiorentina. Partiva dall'1-1 dell'andata a Firenze, risultato positivo, ha perso 3-0, ha preso 3 gol nei primi 21 minuti, tra l'altro 3 gol completamente regalati, il primo di Gonzalo Rodriguez, il secondo di Alonso, il terzo di Basanta, il secondo su un clamoroso errore del portiere di riserva Skorupski. Roma che non c'è stata in campo e dunque ha incassato l'ennesima eliminazione, e dopo già quella sempre per opera della Fiorentina in Coppa Italia. Roma che all'Olimpico non vince dal 30 novembre e da lì ha inanellato soltanto pareggi e sconfitte. Da questa è nata la grande rabbia dei tifosi della Roma, che già nel corso del primo tempo hanno abbandonato la curva sud e sono usciti degli striscioni anche minacciosi. Poi alla fine la squadra è stata costretta ad andare sotto la curva degli ultra, ha subito una sorta di processino, ma nelle prossime ore, nei prossimi giorni si attende forte contestazione a Trigoria. Ti do anche la notizia, l'hai data, della qualificazione del Napoli con lo 0-0 a Mosca contro la Dinamo. Dunque restano soltanto Inter e Torino in questa notte, che deve portare 4 italiane nei quarti di finale di Europa League. L'impresa per il Torino è difficilissima, perché si parte da 2 sconfitte abbastanza pesanti in trasferta e in gara di casa contro 2 squadre molto forti, però ci sono tutti i presupposti perché si possa tentare l'impresa. Tutti e 2 i risultati sono 0-0 e da poco superato il 10° minuto del primo tempo. A te Piera. Grazie a Giovanni Capuano, che ritroveremo fra pochissimo. Restiamo sul calcio perché è stata depositata la sentenza di fallimento del Parma. Con l'esercizio provvisorio deciso dal tribunale sono state gettate le basi per l'auspicabile salvataggio della società e si apre una nuova fase che consente il proseguimento dell'attività. Sono parole del presidente della FIGC Carlo Tavecchio. Quali sono ora gli scenari possibili per la squadra? Ce lo racconta Marco Bellinazzo. Il fallimento era la notizia meno attesa della giornata. La vera notizia è che il tribunale fallimentare ha concesso l'esercizio provvisorio e ha nominato i curatori, quello che la Lega Calcio auspicava per permettere alla società ducale di concludere il campionato e non falsare la stagione. La Lega Calcio si è impegnata a staccare un assegno tra i 5 e i 10 milioni per far fronte alle spese che ci saranno da qui alla fine del campionato, dopodiché a giugno si aprono 2 scenari: o il Parma fallisce come è accaduto al Siena e quindi riparte dalla Lega Dilettanti, oppure c'è la possibilità che una stessa società fondata nella città ducale possa rilevare, comprare all'asta il titolo sportivo e ripartire dalla Serie B. In questo caso però bisognerà pagare i debiti sportivi, che ammontano a circa 50 milioni. E noi ci fermiamo per qualche minuto, poi torniamo insieme e torniamo sui fatti della Tunisia. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Lupi cede alle pressioni e annuncia porta a porta: domani, dopo l'informativa in Parlamento, mi dimetto. La cosa migliore è che io mi assuma tutte le responsabilità, ma salvaguardi la mia famiglia. Tunisia, 4 arresti per l'attacco di ieri al museo. L'attentato rivendicato in un audio diffuso online da un gruppo di militanti dello Stato Islamico. Quello a cui avete assistito è solo la prima goccia di pioggia. e sono diventate ufficialmente 4 le vittime italiane. Identificati i corpi di Giuseppina Biella e Antonella Sesino, date per disperse. Il presidente Mattarella alla CNN: l'ISIS, come tutto il terrorismo fondamentalista, è il nuovo vero nemico della civiltà, della democrazia, dei diritti umani. Un minuto di silenzio per le vittime di Tunisi a Bruxelles, al Consiglio europeo, dove va in scena l'incontro Merkel-Tsipras. Ma la cancelliera chiarisce: nessun accordo con Atene oggi o lunedì. Depositata la sentenza di fallimento del Parma Calcio, debiti complessivi per più di 218 milioni, oltre 63 verso i calciatori. Domani occhialini inforcati per osservare l'eclissi di sole, il picco intorno alle 10.30. Anche Astro Samantha si prepara ad osservarla dall'assù. Per l'Europa League il Napoli pareggia 0-0 in casa della Dinamo Mosca e si qualifica ai quarti. La Fiorentina batte 3-0 la Roma all'Olimpico. Esplode la rabbia dei tifosi. Hanno offeso la nostra maglia, dice. In campo in questi minuti Torino e Inter. E torniamo sui fatti tunisini e lo facciamo con l'ambasciatore tunisino in Italia, Nasseur Mestiri. Buonasera. Buonasera dottoressa, buonasera. Allora, la reazione della Tunisia è stata immediata, molto forte. La gente è scesa in piazza da ieri, dal momento dei fatti. Insomma, ci sono state sia davanti al Museo del Bardo, sia nelle strade, insomma, di Tunisi, molte manifestazioni di vicinanza anche alle vittime, eccetera. Una Tunisia davvero che sta reagendo molto, in maniera molto forte. Sì, ecco perché la Tunisia è stata sempre un paese moderato, una società equilibrata, aperta all'Occidente, e è stata una giornata nera purtroppo per la Tunisia. Non abbiamo avuto mai questo tipo di questo grave attacco terrorista, a parte quello della Gerba 12 anni fa, dove abbiamo perso 12 vittime. E quindi è una dimostrazione che siamo forti come popolo, c'è la coesione anche a livello del Parlamento, partiti della coalizione, dell'opposizione ieri hanno manifestato alla plenaria del Parlamento, hanno cantato simbolicamente l'inno nazionale per dire che non siamo lì per abbassare le mani, che questi terroristi volevano colpire la democrazia, questa giovanissima democrazia che deve essere consolidata. Anche dobbiamo contare sicuramente sulle nostre proprie forze, ma anche dobbiamo contare sulla solidarietà pratica, dico pratica, un sostegno economico forte dell'Europa, dei nostri amici europei e italiani, perché altrimenti questa esperienza democratica riuscita finora dopo 4 anni della rivoluzione del Gelsomino può essere fragilizzata da questi attacchi terroristici, perché questo terrorismo trova il cibo nella povertà, nella marginalizzazione, l'estremismo e il fondamentalismo nascono lì, nelle quartieri della periferia della capitale delle grandi città di Tunisi, anche nelle regioni di Gasserin, di Bouzid, dove sono la povertà e la marginalizzazione. Appena il governo ha cominciato a lavorare, questo governo stabile per 5 anni, e allora hanno cominciato a cercare di stabilire questo governo, perché queste persone, queste gente non vogliono avere uno stato solido, non riconoscono le frontiere. Certo. Senta, ma c'è il pericolo che il suo paese, che la Tunisia, che in Tunisia ci sia una saldatura fra l'integralismo del califfato e l'integralismo locale? Assolutamente no, perché sono meno male una minoranza che agisce in maniera spettacolare, ecco il loro obiettivo. No, la Tunisia è un paese con una coesione nazionale molto forte, e la dimostrazione è stata ieri di una maniera molto evidente. Secondo lei la democrazia tunisina ha la forza per respingere? Ha la forza e la determinazione, perché questa democrazia è partita dalla base. La rivoluzione del Gelsomino non è fatta dall'estero, è imposta dall'estero, è stata la volontà del popolo tunisino. Ma dico sempre che questa democrazia deve essere consolidata a livello economico, sociale, ecco la principale sfida della Tunisia. E possiamo considerare che l'Europa, principalmente il nostro principal partner, è in grado di dare questo sostegno, e lo consideriamo come un investimento geostrategico nel sud del Mediterraneo, perché la stabilità della Tunisia dipende dalla stabilità dell'Europa sicuramente, ma viceversa, la stabilità dell'Europa dipende dalla stabilità di questo paese, ma degli altri paesi. Non possiamo vedere la Tunisia come altri paesi nella regione che conosco questi problemi, e dopo c'è questo impatto diretto sull'immigrazione clandestina. Noi, meno male, abbiamo controllato e gestito bene questa immigrazione clandestina. L'anno scorso, nel 2014, secondo i dati del Ministero dell'Interno italiano, abbiamo visto sbarcati sulle coste siciliane 1.297 tunisini. Tra loro 1.290 sono riammessi in Tunisia nell'ambito di questa collaborazione bilaterale. Quindi questo sta funzionando. Ecco, lei diceva comunque questa sì. Democrazia sicuramente si rafforza anche grazie all'economia, e stiamo toccando un tasto dolente, perché invece i fatti di ieri potrebbero avere una ripercussione molto importante sull'industria del turismo. Lei è preoccupato da questo punto di vista? Ci aspettiamo, ho visto le dichiarazioni del presidente delle federazioni alberghieri del turismo, le agenti di viaggi, e dicono che sicuramente avremo degli annullamenti, ma credo che i nostri amici europei, italiani particolarmente, devono dare fiducia alla Tunisia. Questa sfida e questa, diciamo, questo momento difficile possiamo sormontarlo a medio termine. Dobbiamo avere fiducia, perché il governo oggi ha preso una serie di misure di sicurezza, anche il Presidente della Repubblica, che ha la carica della sicurezza nazionale e della difesa, ha riunito per la prima volta le tre armi, gli altri consigli dell'armi e della sicurezza, per dire che c'è un coordinamento tra tutte le forze di sicurezza delle tre armi, e per dare un messaggio di coordinamento e rassicurare il popolo tunisino e i nostri amici europei principalmente. Vuole lanciare un appello all'Europa perché non lasci solo la Tunisia? Sì, un appello all'Europa. C'è un'opportunità nel prossimo giugno, la G7 in Germania, e dobbiamo essere invitati normalmente. Contiamo sull'Italia come ambasciatori della Tunisia per sostenere questa azione di sostegno economico alla Tunisia. Dobbiamo prevedere un mini piano Marshall per la Tunisia. Ecco, per consolidare e vedere questa esperienza democratica che è riuscita finora, e dimostrare che un paese arabo musulmano è in grado di essere un paese democratico. L'Islam e la democrazia possono essere in coabitazione pacifica e un coordinamento perfetto. E invece si sente di dire agli italiani, che tanti vengono, no, in vacanza in Tunisia, di non rinunciare ai viaggi? Di magari non rinunciare. C'è una compagna sulla rete per sentire che siamo tutti bardo, come abbiamo fatto per Charlie Hebdo. Siamo Je suis bardo. Je suis bardo. E questo è un segno di fiducia, e riconosciamo gli amici nei momenti difficili. Grazie. E contiamo sull'amicizia dell'Italia. Arrivederci. Grazie all'ambasciatore tunisino in Italia Nasseur Mestiri. Le abbiamo sentite le sue preoccupazioni per le ripercussioni che potrebbero esserci sull'industria del turismo. Tra l'altro oggi Costa e MSC Crociere hanno fatto sapere di aver sospeso tutti gli scali tunisini. Salutiamo il presidente di Astoi, Luca Battifora. La Astoi rappresenta i maggiori tour operator italiani. Buonasera. Buonasera agli ascoltatori, a lei grazie dell'invito. Grazie a lei. Allora, abbiamo parlato dei fatti di Tunisi, fatti particolarmente tragici, le vittime, naturalmente a loro che va il nostro primo pensiero, però c'è un altro argomento molto importante, che è quello del turismo, perché l'industria del turismo per la Tunisia è davvero molto importante, lo dimostrano anche le manifestazioni che si stanno verificando a Tunisi, perché naturalmente i tunisini sono molto preoccupati per quello che potrà potrà accadere. Costa Crociere ha già fatto sapere che in questi giorni ha sospeso i viaggi e le soste in Tunisia. Ecco, voi come Astoia avete la percezione che questo potrebbe cambiare anche l'industria del turismo in Tunisia? Potrebbe far ripensare a molti italiani di compiere un viaggio in Tunisia? Beh, guardi, innanzitutto, come lei giustamente ha introdotto, è doveroso anche da parte mia un atto di vicinanza, solidarietà, affetto alle vittime, ai familiari, a tutti coloro che hanno vissuto questa tragedia. La Tunisia è un paese che storicamente ha sempre manifestato vicinanza al turismo e agli italiani, un paese fatto di tolleranza, fatto di cultura, di ospitalità. Tant'è vero che appunto è stato un po' un fulmine a ciel sereno questo episodio. Nel 2014 gli italiani che sono stati in vacanza in Tunisia sono oltre 250.000 e siamo uno dei primi quattro mercati per il turismo che appunto passa le proprie vacanze nel paese della Tunisia. Quindi è strategica, è una destinazione che è amata dagli italiani, che ha sempre offerto bellezze e un ottimo rapporto qualità-prezzo. Non posso escludere, anzi sicuramente ci saranno delle ripercussioni, una reazione emotiva sicuramente ci sarà, anche se le devo dire che col passare del tempo stiamo notando nel consumatore una maggiore propensione, una maturità a capire che non, se vogliamo, non c'è più un posto necessariamente sicuro o necessariamente insicuro, ovviamente fatte salve dei casi molto specifici. Chiaramente ci sono dei paesi nei quali è assolutamente sconsigliato andare, però ad esempio la Tunisia, fatti di così tragici non si erano mai verificati, insomma non c'è motivo forse per cancellare i viaggi. Come diceva lei, la risposta emotiva forse ci può essere, però insomma ci aspettiamo una risposta molto forte? Ma io auspico di no, e a supporto di questo dico solo, se guardiamo i dati, gli eventi più tragici sono avvenuti appunto in questo paese adesso, che è considerato da sempre un paese invece di ampia tolleranza e convivenza con altre culture. E poi abbiamo avuto la tragedia di Parigi, la tragedia di Copenaghen, cioè, la stessa Italia è stata definita obiettivo sensibile, se vogliamo, ai fini del terrorismo. Questo per dire che non possiamo vivere nella paura, perché questo è anche un po' quello che vogliono questi delinquenti, di prendere un aereo, di andare in metropolitana, e in questo stiamo notando che molti clienti, molti consumatori incominciano ad avere un approccio, come forse è giusto che sia, di maggiore consapevolezza che il mondo è cambiato, ma che questo non necessariamente deve comportare rischi o rinunce. Secondo lei, insomma, in questi giorni si stanno già registrando, lei ha la percezione, ha tastato un po' il terreno, insomma c'è preoccupazione da questo punto di vista da parte dei tour operator? In Astoria risiedono la quasi totalità dei tour operator, sicuramente i più importanti. Molti di questi programmano nelle loro destinazioni la Tunisia, ed è evidente che l'effetto immediato emotivo c'è stato oggi, a neanche 24 ore dall'evento. Molte cancellazioni? Però, richieste soprattutto di chiarimenti, di tranquillizzazione. La stessa Farnesina non ha emesso alcun sconsiglio, perché non c'è un oggettivo pericolo. È un evento isolato, quindi non c'è una condizione di rischio o che ci siano segnali per una condizione di rischio. Solitamente l'effetto emotivo va a scemare nelle 48-72 ore successive, per poi piano piano ritornare alla normalità. Quindi, per rispondere alla sua domanda, dico sì, probabilmente ci sarà una prima onda emotiva di questi giorni, che però poi dovrebbe ristabilizzarsi e normalizzarsi nel corso del tempo. E auspichiamo che per l'estate, che è la stagione ideale per fare le vacanze in Tunisia, sia definitivamente archiviato, messo in soffitta questo triste e drammatico episodio. Secondo lei Battifar ha fatto bene Costa Crociere a cancellare le tappe tunisine? Beh, questa è una decisione che non mi permetto di commentare, perché è una decisione strategica di una singola azienda, peraltro Costa Crociere è il nostro associato. Sicuramente è un'azienda che lavora su ambiti internazionali, lavorano in diverse nazionalità, e quindi abbiamo fatto delle valutazioni anche di sensibilità dei vari paesi, ma ritengo che possa essere una decisione provvisoria che poi probabilmente sarà rivista se ci saranno le condizioni. Grazie mille. Grazie a lei e all'ascoltatore, buona serata. E noi ci fermiamo per ascoltare che tempo farà domani, molto importante per capire se riusciremo a vedere bene l'eclissi di sole, poi torniamo insieme. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. La cosa migliore è che io mi assuma tutte le mie responsabilità, ma salvaguardi la mia famiglia. Il ministro Lupi cede dunque alle pressioni, annuncia porta a porta le dimissioni domani dopo l'informativa in Parlamento. Sono diventate ufficialmente 4 le vittime italiane a Tunisi, identificati i corpi di Giuseppina Biella e Antonella Sesino, date per disperse. Il presidente Mattarella alla CNN dice: l'ISIS è il nuovo vero nemico della civiltà. Appello all'Europa da parte dell'ambasciatore tunisino a Roma Mestiri. Ai microfoni di Effetto Notte dice: occorre un mini piano Marshall per consolidare la democrazia e dimostrare che un paese arabo musulmano è in grado di essere democratico. Islam e democrazia possono convivere. Un minuto di silenzio per le vittime di Tunisi a Bruxelles, al Consiglio europeo, dove va in scena l'incontro Merkel-Tsipras. Ma la cancelliera chiarisce: nessun accordo con Atene oggi o lunedì. Domani occhialini inforcati per osservare l'eclissi di sole, il picco intorno alle 10.30, anche Astro Samantha si prepara ad osservarla dallassù. Europa League, il Napoli pareggia 0-0 in casa della Dinamo Mosca e si qualifica ai quarti, la Fiorentina batte 3-0 la Roma all'Olimpico, esplode la rabbia dei tifosi che urlano mercenari. Garcia: sono mortificato ma non mollo. In questi minuti in campo Torino e Inter. E torniamo alla pagina politica, l'avete sentita anche in apertura dei titoli. Il ministro Lupi domani dunque si dimette. In diretta con noi Elisabetta Fiorito, buonasera Elisabetta. Buonasera Piera, allora ci sono già un pochino di polemiche, parliamo di delle polemiche, perché il ministro Lupi domani si dimette, l'ha annunciato a porta a porta, insomma. La terza camera. Sì, insomma, il fatto che si vada in televisione per annunciare le proprie dimissioni, anche se lui poi ha ribadito di aver prima chiamato il Presidente della Repubblica, che ha ricordato, ecco, lui che nomina i ministri su indicazione del Premier e poi anche lo stesso Premier, eccetera, tutto quanto, però insomma forse... Di fatto poteva aspettare l'informativa, che a questo punto diventa abbastanza inutile. Allora, comunque, oppure questo è fatto. Oppure mandare un comunicato, anche certo. Un comunicato stampa che, in cui mandarlo poi ai presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio sulle sue dimissioni. Annunciato in televisione è sembrato un po' uno scivolone. Certo, ecco. E poi insomma determinante forse potrebbe essere stata anche l'ultima intercettazione, quella che è stata diffusa oggi, no? In cui davvero sì, sembra lui incalzare. Sì, lui va da incalza a incalzare per fargli incontrare il figlio, no? E allora lì si capisce che insomma tutto sommato c'era qualcosa, no? Lui ha anche detto: non ve la prendete con mio figlio, prendetevela con me. Insomma, una gestione, c'è qualcosa che è sfuggito di mano, anche se lui dice che domani è nell'informativa. Nell'informativa che sarà a Montecitorio, che noi seguiremo attentamente, risponderà a tutte le domande, è importante sia del Movimento 5 Stelle, di Stel, che ne avevano chiesto la sfiducia, sia invece dei giornalisti. Ricordiamo che queste dimissioni sono avvenute alla fine di una giornata in cui poi il Premier Matteo Renzi aveva già detto che insomma l'avrebbe lasciato solo, cioè questa mozione di sfiducia il governo non sarebbe intervenuto in suo favore. E la sinistra del Partito Democratico aveva incalzato sia Stefano Fassina, poi addirittura Cooper aveva parlato di situazione insostenibile, e anche all'interno della maggioranza del PD sì, comunque si parlava di una situazione insostenibile, quindi il PD l'avrebbe lasciato solo. Ecco, che succede quindi adesso però Betta, perché Lupi potrebbe diventare che cosa? Agenzia di poco fa, allora, insomma. Allora, si dicono capogruppo di Montecitorio, il nuovo centrodestra alla Camera, voglio dire, non è questo grandissimo ruolo, però per un ministro delle infrastrutture che regge, è al suo posto? Ecco, il problema adesso è chi mettono al suo posto, perché lui tutta la sera che dice: Renzi non dovrebbe mettere uno del PD, insomma praticamente Lupi e credo anche Alfano vorrebbero uno del nuovo centrodestra che riprende quella casella, no? Sai come sono i governi, certo, no? È certo. Però il problema è che bisogna capire che cosa vuole fare Renzi, perché ricordiamoci che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha in ballo tutte le grandi opere e soprattutto in quest'anno ha in ballo anche l'Expo. Quindi Renzi potrebbe avvocare a sé quell'incarico, forse? E Renzi potrebbe avvocare a sé quell'incarico o comunque darla a uno del PD, e infatti questo è quello che teme Lupi e che ha detto ripetutamente anche porta a porta: speriamo che non sia così, perché questo indebolirebbe il governo. Questa è la sua frase. Altra cosa è Nunzia De Girolamo, ricordiamo, ex ministro dell'agricoltura, anche lei poi si era dimesso per questo scandalo che c'era stato a Benevento. Anche l'intercettazione di mezzo. Intercettazione di mezzo, non bisogna parlare al telefono in questo paese, questo si è capito. Bisogna dire ci sentiamo dopo. Beh, dipende poi da cosa si dice al telefono, bisognerebbe fare le cose pulite, al telefono e fuori. Betta, io ti devo salutare, ti ringrazio. No, ti volevo dire l'ultima cosa, non so, Geronimo che dice che il nuovo centrodestra dovrebbe uscire dal governo, ma questa mi sembra più una butade, e vi saluto. Grazie Elisabetta Fiorito, che ritroveremo naturalmente domani con l'informativa proprio di Lupi in Parlamento. Grazie a lei. Noi parliamo invece per un istante, tiriamo un po' il fiato, parliamo dell'eclissi solare di primavera, quella che domani ci costringerà tutti col naso all'insù a vedere questo fenomeno che ha sempre il suo fascino, devo dire. Salutiamo Fabrizio Villa, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Buonasera. Buonasera a tutti. Villa, perché è così speciale questa eclissi rispetto ad altre, visto che molto, insomma, se ne parla molto, ecco? Vabbè, se ne parla molto perché appunto è un'eclisse che avviene proprio al giorno d'inizio di primavera, quindi in qualche modo a maggior ragione fa percepire un cambiamento, no? Che è quello proprio dell'inizio della primavera. E se ne parla e poi perché effettivamente è un fenomeno, l'eclisse, che insomma lo dico appunto, è la luna che si interpone tra il sole e la terra, quindi che ci fa ombra. È un fenomeno che in Italia insomma è abbastanza raro, cioè sono abbastanza rari di questa portata, perché il sole viene coperto effettivamente dal 50 al 70% andando dal sud Italia fino al nord Italia, quindi è un cambiamento abbastanza importante di luminosità. Assolutamente. Senta, sì. Villa, ma se ci dovesse dare un consiglio, dove dobbiamo andarla a vedere questa eclissi per vederla così bene, noi che siamo in città, insomma, bene o male? No, beh, diciamo che il consiglio è proprio cercare una zona dove il sole viene ben visto. Adesso il sole è molto luminoso, quindi non è che uno deve aver bisogno di cieli puliti, come ad esempio l'osservazione del cielo notturno. L'unico consiglio è proprio andare dove c'è sereno, questo però. Beh, sì, però dal meteo abbiamo sentito che domani è bel tempo su quasi tutta l'Italia, quindi saremo fortunati, insomma. Esatto. La ringrazio, la lascio al suo lavoro, perché immagino che si starà preparando anche lei, no? a questo avvenimento. Sì, direi che domani è uno di quei giorni in cui al lavoro posso stare seduto davanti al sole. Oh, finalmente. grazie a Fabrizio Villa, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Ci troveremo fra pochissimi minuti. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. La cosa migliore è che mi assuma tutte le mie responsabilità, ma salvaguardi la mia famiglia, dice il ministro Lupi, che cede alle pressioni, annuncia porta a porta: domani mi dimetto. Sono diventate ufficialmente 4 le vittime italiane, identificati i corpi di Giuseppina Biella e Antonella Sesino, date per disperse. Dure le parole del presidente Mattarella alla CNN: l'ISIS è il nuovo vero nemico della civiltà. Appello all'Europa da parte dell'ambasciatore tunisino a Roma Mestiri, ai microfoni di Effetto Notte dice: occorre un mini piano Marshall per consolidare la democrazia e dimostrare che un paese arabo musulmano è in grado di essere democratico. Al Consiglio europeo va in scena l'incontro Merkel-Tsipras, ma la cancelliera chiarisce nessun accordo con Atene oggi o lunedì. Per l'Europa League il Napoli pareggia 0-0 in casa della Dinamo Mosca e si qualifica ai quarti. La Fiorentina batte 3-0 la Roma all'Olimpico, esplode la rabbia dei tifosi che urlano mercenari, Garcia, sono mortificato ma non mollo. Abbiamo finito parlando dell'eclissi, riprendiamo proprio da qui perché siamo in collegamento con Matteo Piovella, presidente della SOI, la Società Oftalmologica Italiana. Buonasera. Buonasera, buonasera a lei. Due o tre indicazioni in breve sintesi su come guardarlo questo sole domani senza farci del male. Beh, sicuramente è una cosa affascinante, il sole è responsabile della vita sulla Terra e del nostro sistema, quindi c'è un grande fascino verso l'eclissi e quindi bisogna cercare di ragionare. È ovvio che il primo istinto è quello di guardare, ma magari mettere degli occhiali da sole come protezione. Questo non funziona assolutamente. Bisogna usare assolutamente gli occhiali che usano i saldatori, sono delle cose molto particolari, e evitare di usare quei vecchi rimedi tipo col nero fumo annerire i vetri per poi guardare questa cosa. Grazie, grazie mille a Matteo Piovella della Società Oftalmologica Italiana e siamo qui invece in studio con Sergio Nava, buonasera, con cui vogliamo parlare del Consiglio europeo. I 28 leader europei riuniti nel vertice di Bruxelles hanno osservato un minuto di silenzio prima dell'inizio dei lavori per commemorare le vittime dell'attacco di ieri a Tunisi. Europa 24 notte. Sergio, allora ancora una volta però la Grecia a tenere banco. Sì, anche se insomma subito un'ultima ora, nel senso che c'è anche la posizione italiana, l'Italia devo dire è rimasta molto defilata oggi per quanto riguarda i lavori europei e si è saputo, almeno l'ha detto il sottosegretario degli affari europei Gozzi parlando con i giornalisti a Bruxelles, che l'Italia sta ponendo nella cena dei 28 leader la questione dei rapporti con la sponda sud del Mediterraneo anche dopo l'attentato di ieri in Tunisia, quindi anche se ufficialmente bisogna dire è in agenda per domani, Libia e Tunisia sono in agenda per domani, stasera la cena è sull'Ucraina e la crisi con la Russia, insomma, però a quanto si è saputo Renzi dovrebbe anticipare la cosa. E allora, però dicevi giustamente della questione Grecia, allora potremmo già sentire forse la voce di Angela Merkel quando è arrivata pomeriggio a Bruxelles. Una Merkel è quasi ironica perché ha detto ai giornalisti: penso che molti di voi si aspettino da me delle dichiarazioni importanti sulla Grecia, sappiate che quello che l'incontro di stasera non porterà a soluzioni, ha raggelato subito tutti, perché appunto verso le 23 all'incirca dovrebbe tenersi questo vertice molto esclusivo tra Hollande, Merkel, Tsipras, Juncker per la Commissione, Dijsselbloem per l'Eurogruppo e il Presidente del Consiglio europeo Tusk, un vertice tra virgolette politico per cercare di trovare una soluzione sulla Grecia, anche se il problema, per quanto Tsipras cerchi di spostare la questione sull'asse politico per guadagnare sostegno, per guadagnare forse anche soldi, insomma aiuti in qualche modo, in realtà il problema resta tecnico, perché ieri l'FMI lo ha detto, ma non solo, la Grecia non sta di fatto collaborando nell'implementazione dei famosi accordi del 20 febbraio, quindi la situazione è molto seria. Sentiamo anche tra l'altro cosa ha detto Tsipras arrivando. Serve più iniziativa politica, ha detto Tsipras arrivando e parlando appunto con i giornalisti. Dicevo, il presidente del Parlamento europeo Schulz ha detto servono 2-3 miliardi di euro subito ad Atene per le spese correnti, quindi la situazione è veramente grave. Grazie, grazie al nostro Sergio Nava. Noi ci fermiamo qui. Ringrazio in redazione Cristian Goldoni, Pietro Lacorte in regia. Noi ci ritroviamo fra pochissimo con GR24. Un saluto da Maria Piera Ceci.